Buon 2010, strozzi. Ehi, meglio che non mi scocci, perché io non sono soci. Me ne fotto degli elogi, ho boicotto te e i tuoi soci. Tra le mani ho gli orologi, e tu domani se non oggi. Quando senti il botto diventi un morto sui necrologi. E questi fanno moniti, ma mica l'anno domini. Se tiri fuori il sacro, massacro tutti i condomini. Noi fenomeni anomali, tra gli automi e mitomani. Siamo poveri uomini, e se ci nomini vomiti. Vita bastarda, destino frocio frivolo. Per quanto mi riguarda puoi ingoiare ogni mio rivolo. E fanculo a ciò che dicono, io in mente un solo antidoto. Sbatto sempre sullo stesso spigolo. Quest'anno non cambiare squadra, la caparra è magra. Chi sbaglia paga, vedrai la calca al funerale. I fiori sulla bara, papo dice che sbagliando si impara. Ma quest'anno me la faranno pagare cara. Voglio lacrime e sudore, voglio un giorno di dolore. Per tutte le puttane che mi hanno spezzato il cuore. Voglio vedere come un porco muore. Faccio irruzione in banca e punto un fucile in faccia al direttore. Il caporale pesta fino a spezzare la spina dorsale. E l'odio sale come lo stipendio d'un parlamentare. Vedrai finire tutto questa notte stessa con un colpo di pistola in testa. Fanculo il 2012, abbiamo 2000 codici. Stringo tubi catodici attorno a colli cattolici. Sto con gli occhi diabolici, bevo tutti gli alcolici. Non siamo gruppi melodici, siamo cupi e metodici. Salgo con gli psicotici, barresi arresi alla malattia. Dopo 12 dosi di antibiotici, siamo gli antidiotici. Siamo gruppi caotici, dizotici, con gravi disturbi cianotici. Mettiamo sotto d'occhio sciagure e metti fissa. Non mentre Granny ti infila un cacciavite sotto l'occhio. E se sarà interrogato, si sarà un terzo grado. Con la luce in faccia, martellate sul ginocchio. Lo vedi che succede a fottere con chi non conosci? Lo vedi che succede se volti chi non conosci? Sto cazzo che ci arrivo al prossimo. Questo è l'anno del mio disco postumo. Granny boy c'ha i giorni contati come un tossico. È l'anno che io mi disintegro in quarta al primo svincolo. È il giorno dell'uscita di sto singolo. E i quattro stronzi che mi spingono ad oltranza sono il mio motivo per dropparne un'altra e stare a testa alta. Ancora in strada a putrefarmi con stagnole da 3 grammi. Tiro tardi finché non atterra l'ambulanza. E ti domandi come mai, sin dall'anno che mi shankai. Rappo sotto torchio l'occhio Shanghai. Da carbonara con gli zombie, vieni dai. Con lo dramma live, tempo perso, doppia di nuovo M, con le pezze al culo e con troppi casini in testa. Vedo ragazzini in festa, ma sicuro non provo interesse alcuno. Questo è l'anno e tu speri che resti con le mani in pasta. Per me sono 20 come tutti quanti soldi che c'è in tasca. Scemo di che ti impicci, se per mangiare ammazzo un barbone in stazione e gli fotto gli spicci. Io coerente affronto, però mentalmente affondo. Sono il figlio che una madre non vorrebbe mai per niente al mondo. Pronto a questo, solo con la storia che mi porto appresso. Qua resto, ma è la paranoia che mi porta a questo. Il rap è la mia vita, però la mia vita è merda. Quindi il rap è merda, ma a me piace questo. E questo non ha senso.